Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Piccola Patria di Lucia Franchi e Luca Ricci con Simone Faloppa, Gabriele Paolo Ca e Gioia Salvatori. Regia di Luca Ricci, una produzione Capotrave Infinito. L'avessi detto prima, avrei avuto almeno tempo di farle una ragione. Allora, anche se te l'avessi detto ieri sera, quando ho saputo del sorteggio, tu cosa avresti avuto modo di fare? Scappare. Ma quindi tu non me l'hai detto per paura che io scappassi? Ah, no, tu non me l'hai detto per paura che io facessi fare una brutta figura? Caterina, non fare la bambina. E tu non fare papà. Guarda, già mi vento di averti scelta come segretaria. Sono stata a cena con i miei compagni del liceo. Tu non sapevo che fossi rimasta in contatto con loro? Neanche io. Cominciamo a aprire lo scatolone. Non lo aspettiamo? Verità. Metà della cena a rievocare quello che succedeva in classe, l'altra metà a raccontare dei figli, dei nipoti, dei parenti. Per me sono stati gli anni più belli. Io non mi ricordo niente, questi tiravano fuori dei professori dimenticati, poi dopo ridevano di episodi che io ho completamente scordato. Tu sei sicura di non essere stata alla cena di classe di qualcun altro? Non serve ricordare tutto del passato. Grazie al mio passato io sarei la metà di quello che sono e farò la metà di quello che faccio. Stanotte mi è tornata in mente una cosa, a dormire di là in camera mia. Ma perché? Perché le camere non le cambia nessuno quando ce ne andiamo a vivere da un'altra parte? In quella stanza è come se il tempo non fosse andato avanti. È rimasta ferma 20 anni fa. Quello che fanno i genitori. Fermano il tempo, così noi restiamo sempre figli. Era l'elementare, no, forse ero già alle medie. Ti ricordi che avevo questa paura che mamma e papà morissero? E mi chiedevo, ma quando tutti quanti, mamma, papà, tu, no, tu, però magari più avanti anche io saremmo diventati vecchi e saremmo morti, chi potrà vivere dentro casa nostra? Cioè, mi faceva impressione immaginare che altri avrebbero abitato le nostre stanze, non so, il giardino. E allora sai cosa facevo per superare l'angoscia? Sì. Alzavi a bere un bicchiere di latte svegliando tutti. No, appena succedeva prima del frutto in classe, no! Io mi immaginavo che saremmo ritornati come fantasmi per spaventare chi avrebbe voluto comprare casa, così nessun altro ci avrebbe abitato e saremmo rimasti soltanto noi. Te non sono mai venuti in mente i figli, i nipoti? No, io immaginavo solo quello che già c'era. E per questo si fanno i figli? Per evitare che la casa di famiglia vada in mano a degli estranei? No, per prendersi una responsabilità del futuro. E non lo faccio. Vorrà dire che casa di papà e mamma andrei miei. Che magari non vorranno vivere qua. Guarda che qua diventerà un posto migliore. Vabbè, magari non vorranno viverci lo stesso. 5.000 anime separate dal resto. Come se mescolarsi ci avesse reso più forti. Se all'isola ti ritrovi nel cortile di un altro senza neanche saperlo, perché non lo sa neanche il proprietario dove comincia e finisce la sua proprietà. E gli unici che sono riusciti a costruire un recinto sono quelli che si sono fatti una casa di mattoni con il tetto di lamiera. Costruiscono un recinto così gli altri non vedono quello che hanno e non lo desiderano. I ricchi possono permettersi il lusso di separarsi, i poveri hanno altro a cui pensare. E da noi anche i poveri vogliono separarsi. Costruiscono un recinto, ma dentro non c'è niente. Sì, anche per entrare in un cortile vuoto, bisogna chiedere il permesso per entrare. Io non ho bisogno di chiedere il permesso nell'isola. Ah. Sì, io mi ritrovo nel cortile di un altro, lo saluto. Uh-huh. Se ho caldo mi metto sotto al suo albero, se ha un frutto me lo offre, se ho qualcosa glielo offro io. E se nessuno dei due ha niente, ci godiamo l'ombra, è gratis. Oppure parliamo, che pure non costa niente. Se funzionasse così bene come dici tu, non avrebbero bisogno di gente come te. aiutarli. Perché intanto tu te ne torni qui a cercare i nostri soldi, perché l'ombra gratis e le chiacchiere non bastano a vivere bene. Se i soldi ti servono per creare un recinto così stretto, è meglio che li dai loro. Li faccio colpire 10. Poi li spunti. Se tutto va come deve, pensavo di fare una festa alla villa. Abbiamo ritrovato dei documenti e pare che proprio alla villa fu firmato il primo trattato di indipendenza di San Verdiano nel 1440. Non è chiusa la villa? Da fuori mi sembra malmessa. La riapriremo, sarà la prima cosa che faremo. La villa è stata l'antica sede del primo governo autonomo. Altro che quella brutta palazzina dove adesso c'è il comune. Se non crolla prima. Dai, scusa. Non farai tempo a crollare. Ormai ci siamo. Io sinceramente non ricordo bene tutta questa vicenda dell'indipendenza di San Verdiano. Caterina l'avrei sentita mille volte. Beh, mi ricordo il fatto di questi due che sbagliarono a segnare il confine per colpa di un fiume, di due fiumi che adesso non ci sono neanche in più. Infatti io mi sono sempre fermata, persa a questo punto della storia, perché voglio dire, com'è possibile che due fiumi spariscano? Che cos'è? Un mistero idrogeologico. Il Papa cede San Verdiano alla Repubblica. Ognuno manda il proprio delegato a segnare il proprio margine di confine. Il problema qual è? È che ci sono due fiumi che hanno lo stesso nome. Il Rio. Il delegato della Repubblica prende a confine il fiume a nord, mentre il delegato del Papa prende a confine il fiume a sud. Ma se non mi stai ascoltando? No. Ci sono due fiumi. Questi due fiumi hanno lo stesso nome, si chiamano Rino. Il delegato della Repubblica prende a confine il fiume a nord, qui c'è la Repubblica. Il delegato del Papa prende a confine il fiume a sud, qui c'è il Papa. Cosa rimane in mezzo? San Verdiano. E fu allora che i sanverdianesi si proclamarono autonomi, indipendenti, perpetua e firma libertas. Perpetua e sicura libertà. L'avete scritto dappertutto in paese. Non potevamo trovare una sola migliore per la campagna referendaria. All'antica villa lo stemma è ancora parzialmente visibile. Si è un po' rovinato, ma si intravedono ancora due pesci che escono da due fiumi. E in mezzo la nostra San Verdiano. Ecco, per me i due pesci che escono dai fiumi rappresentano i delegati che sbagliarono a segnare il confine. La storia ce lo racconta che fine fecero? Pessima. Un goccio d'olio, un po' di sale. Io li avrei fatti cittadini onorari di San Verdiano. Abbiamo fatto un sopralluogo dei restauratori e pare che se ci sbrighiamo, possiamo fare un bel recupero dello stemma. Restaurazione completa, eh? Ecco che cosa vedi in mente. Lo vedi anche tu, che è tutto lasciato andare. Che nessuno importa della nostra San Verdiano. Noi dobbiamo fare da soli. E lo faremo. Vado a controllare senza che io sia posto. Perché non dovrebbe? Perché non c'è da stare tranquilli. Guarda che in paese sono tutti tranquilli. Sì, anche 10 anni fa erano tutti tranquilli. Portati avanti con le schede. Ciao. Come stai? Bene. E tu? Cosa? Mi domandi, e tu? Dov'è tuo fratello? È al seggio 2. Non è questo il suo seggio. Ma perché devo fare? Sì, puoi tirare fuori le schede dallo scatolone, poi dopo le apri e le metti a gruppi di 10 così. Mi avevano detto che ritornavo. A vivere o... l'ha fatto fare. Non sei cambiata. Forse un paio di chili in più. Anche tu sei ingrassato. Che bel momento che hai scelto per tornare. La tentazione di essere a fianco del primo presidente della Repubblica Autonoma di San Merdiano. Ha rotto sto freddo. A me mancava. Il freddo? E come fa a mancarti il freddo? Mancava la sensazione dell'inverno che finisce, diciamo, il caldo che promette la primavera. Non sempre mantiene le promesse. Devi sempre aspettare l'estate. Dobbiamo parlare del tempo, io e te. Mi hanno detto che ti sei separata. Neanche sapevo che ti eri sposata. Hai figli? Non sarà affari tuoi. Questo lo so. È sempre meglio che parlare del cambio delle stagioni. Non dobbiamo parlare per forza. Perché sei tornata? Perché non te ne sei andato via? Perché io volevo fare qualcosa qui. Volevo prendermi la licenza dei caselli. Te lo ricordi, il caselli? Sì, quello che aveva al bar sullo stradone. Dove lavoravo da ragazzo? Mi sarebbe piaciuto molto. C'era anche il giardino per metterci i tavolini d'estate. Perché non l'hai fatto? Perché c'era sempre qualcuno che metteva una mala parola nei miei confronti. La banca sta per darmi il prestito. Poi da un giorno all'altro si tira indietro, così. E il direttore non sa neanche bene che cosa dire. Allora trovo il Giovagnoli. Te lo ricordi il Giovagnoli? Sì. Che sembra disposto a entrare in società con me. Poi lo sai che fa il Giovagnoli una settimana prima di firmare l'atto da notaio? Si tira indietro, così, con mille scuse. E allora lascio perdere l'idea del bar. E decido di aprire un agriturismo nella vecchia casa dei miei nonni. Solo che anche lì, Caterina, non c'è verso d'avere i permessi per partire con i lavori. Almeno non fino a quando mi presento io a chiedermi. E allora lo capisci. Mi dico che non è giusto, che c'è qualcuno che ce la sta mettendo tutta per mandarmi via da qua. Perché si capisce, non poteva essere solo un caso. E alla fine ho deciso che non l'avrebbero avuta vita loro e sono rimasto. E l'agriturismo l'abbiamo aperto. Mia sorella l'ha aperto. Ma ci lavoro anche io. E che ti devo dire, Caterina, mi piace. Incontro tanta gente diversa. C'è una bella atmosfera. È nella vecchia casa dei tuoi nonni? Nell'aia dove facevamo le feste ora c'è una piscina. Ci sono ancora i salici? No, i salici non li abbiamo tagliati perché le radici si filtravano nei pozzi d'acqua. Che peccato perché? Erano bellissimi. Sì, d'accordo, le altre piante ci sono tutte. C'è anche la figaia. E li fa ancora io? I frutti quali stagionano. Sempre puntuale nei suoi ritardi. Dicevi che era come me. Perché non passi uno di questi giorni? Guarda che si mangia benissimo, eh. Mio fratello c'è già stato? Tuo fratello? Figurati. Però il suo amico sindaco ha fatto in modo che i controlli non mancassero mai. Il primo anno abbiamo avuto visite tutte le settimane, dall'ufficio di igiene alla guardia di finanza. C'entra mio fratello. Caterina, tu perché sei tornata proprio adesso? Devo firmare delle carte un paio di settimane. Ci pensi mai? Ma che cosa? Per dei lunghi periodi non ci penso. Mi scordo. Buongiorno Lorenzo. Ciao. L'appuntamento era per le 3. Dovevo accompagnare un ospite alla corriera. Quando avete finito di aprire cominciate a timbrarle, poi se volete ci diamo il cambio. Queste sono quelle puntate. Sì. Sono rimasto sorpreso di vederti tra gli scrutatori. E perché? Suppongo che ti abbiano mandato a controllare. Sì. Chi mi avrebbe mandato a controllare? Non c'è bisogno di tutti in una difensiva. No, no, Corrado, non c'è una cospirazione contro di me. Non sarebbe la prima volta. Là fuori c'è gente che la pensa diversamente, anche se ti parla strano. Là fuori c'è gente che vuole esprimere la propria opinione in pace stavolta. Ed esprimere la propria opinione non vuol dire di certo esprimere la tua. Io non voglio che succeda niente, comunque vado a finire. sai benissimo come andrà a finire. Non lo so, dovevo aspettare anche 10 anni per saperlo. Va bene, nel frattempo vi siete ben organizzati. Vi avete fatto il lavaggio del cervello. La gente non è stupida come pensi tu. Se tu gli spieghi, capisce. Se gli spieghi la metà delle cose, ne capisce solo la metà. Ecco, perché non sei andato tu allora a spiegare quest'altra metà delle cose? Perché voglio che la gente pensi con la propria testa, non con quella di un altro. Né con la mia, e né di certo con la tua. Ma sì, ma la gente ha altro di cui occuparsi, no? Ha il lupo, ha le rate della macchina nuova, ha i figli, ha il lavoro. Devi parlargli velocemente, per farlo non parli alla testa, ma al cuore. Al cuore, dai, guardalo di cuore. Chiama la pancia. Chiama lo sentimento, mettilo dove vuoi, ma non sta nella testa, la testa è impegnata altrove. Eccolo! Lo scienziato Corrado che ci racconta il futuro dell'evoluzione della specie umana. E Caterina, è in corso proprio qui, nella felice Repubblica Autonoma di San Verdiano. La testa dei sanverdianesi, piccola come un pugno. Mentre la pancia, no, quella gigante. E dentro il petto un cuore enorme che prenderà il posto di tutti gli altri organi, il cervello incluso, capisci? Ti diverti? A me basta che non ricapiti. Dov'è il bagno? A destra. Sono al corridoio. Comunque è bello, perché è tutto nuovo. Ci sono le lime in ogni classe. Le lavagne interattive multimediali. Non l'ho mai vista. Ma se quelle vecchie sono finite in qualche magazzino, lì dove abito mi farebbero comodo. Quelle vecchie sono andate bruciate e siamo tutto il resto. È stata costruita senza pagare spese dopo l'incendio della vecchia. Infatti ha prodotto una varia commissione che sono piovute donazioni spontanee, soprattutto fuori dal paese. Ecco, è fuori dal paese dovevate rifiutare. E questo discorso abbia voglia di fare battute sulla storia che non conquista. Tu? Caterina, il bagno. Ah. A destra. Fuori al corridoio. Te la prendi troppo sul serio, Corrado. Non me ne frega un cazzo di questo referendum. 10 anni fa non era così. Un buco di culo del mondo che vuole diventare solo buco. Senza culo e senza mondo, solo un bel mucchio di merda. Metafora ardita. Lasciala per i tuoi amici al bar. Non ci vado mai al bar. Ti chiederei di non rientrare nell'argomento. Sei tu che hai ritirato fuori la storia che l'incendio alla scuola. Io solo chiesto perché fossi venuto qui. Che è uno dei tuoi modi finto gentili per dirmi che non dovrei esserci. Sai, mi dispiace doverlo ammettere davanti a te, ma stamattina pensavo, aspettare 10 anni. Aspettare 10 anni ha avuto i suoi vantaggi. 10 anni fa in pochi ci prendevano sul serio, qui e fuori da qui. Cosa dicevamo noi? Che facevamo una rievocazione storica di paese, che eravamo dei bigotti folcloristici. Ora quello che diciamo noi lo dice la maggioranza, soprattutto fuori da San Verdiano. Nessuno pensa a noi come un paesino sconosciuto. Siamo un caso nazionale e possiamo rivendicare di averlo detto per primi. Ma io non credo che siamo un caso nazionale. La nostra moneta, la nostra banca, la nostra bandiera, ma tu lo sai quante risate si stanno facendo? Che credi di dirti, Lorenzo? Fuori di qui, noi siamo presi molto sul serio. Ci sono quelli come te che ormai fanno ridere. No, ti assicuro di non essere il solo a pensare che siete dei buffoni. Perché sei venuto? Dico, perché sei venuto a fare lo scrutatore? Mi ero iscritto alla lista. Ah. Mi hanno sorteggiato ed eccovi qua. Però, quando ho visto che era in questo seggio, che tu eri il presidente, mi sono detto una prova. Una prova? Che prova, Lorenzo? Una prova, Corrado. Di coraggio. O di forza. Forza e coraggio vanno sempre insieme, no? Non capisco di cosa fare. Per starti accanto, Corrado, ci vuole coraggio. E ci vuole pure una bella forza. Io non lo so se stavolta riesco a superare la prova. Tu devi solo stare zitto. Che c'è, Corrado? Avrei preferito non averti qui. Esagerato. Guarda che tu rischi grosso. Tu quanto me? Noi abbiamo fatto un accordo. E tu questo accordo lo devi rispettare. Ah sì, altrimenti? devo ancora abituare, perché lì dove sono là per i siti di plastica, già farsi una doccia è un miracolo, poi calda. Dov'è che stai esattamente? Ma in isola, con cabane senza bagno e case senza acqua. Ah sì? Nient'altro. No, ci sono delle botteghe, c'è un mercato, poi c'è anche una specie di bar che la prima volta che l'ho visto mi ha ricordato il bar della Baffona. Un bar elegante, insomma. C'è ancora il bar della Baffona? Ma anche, è chiuso da 5 anni. No, lei è viva? Ma sì, Baffi è tutto, sì. No, sì. Dai, no, mi piaceva tantissimo andare in quel bar con nonno. Dai, guarda lì, una gran barfetta. Ma che c'entra? Non c'entra niente, c'erano le patatine con dentro la sorpresa, poi dopo c'era il gelato dentro quella pipa di plastica rossa. Si tirava sul gelato dal becco della pipa. Da. Mi pare che il gelato dentro la pipa rossa c'era soltanto la Baffona, San Bergiano. Sì, questi sono tre gruppi da te. Sapevano di plastica, il gelato e le patatine. Sì, però c'era la macchinetta con dentro le palline di gomma che il nonno me ne comprava sempre una. Io speravo sempre che mi uscisse quella rosa. E io quella blu, che poi diventava mia porta fortuna. Ho tenuto una pallina blu del bar della Baffona nella tasca dei pantaloni non lo so quanto tempo. Io me la ricordo la fine. Vedo che ti sta tornando la memoria, Caterina. No, non me lo posso dimenticare. Te la cavi bene, eh? Anche sul resto. Non tutto merita di essere ricordato. E tu lo ricordi a non c'è stato? Facciamo così. Io tengo soltanto i ricordi che fanno di me una persona migliore. Quello che sei già. Forza. Non c'è più tu da lavorare. Già. Sono all'inizio. Cercando di far funzionare questa cosa che Corrado mi ha spiegato che funziona stamattina, però niente, voglio guardare l'intervista. Ma che te ne frega, te la farà rivedere ogni pranzo di famiglia per i prossimi 20 anni. Fammela vedere in diretta. Fammi vedere. Si è bloccato. Mai usate sera. L'affluenza è ottima, è solo l'ora di pranzo e già il 30% degli aventi diritto al voto si è recato ai seggi. Questi dati sembrano smentire chi vi accusa di portare avanti una battaglia di altri tempi, però perché lei pensa che ci sia questa grande attenzione intorno alla questione dell'autonomia della piccola San Verdiano? Perché siamo vittime di un'enorme convenzione a cui ci siamo piegati in molti. Quando si parla di incontro tra culture, di grandezza come valore, di aprire i confini, anche chi non era d'accordo per paura di essere accusato di conservatorismo, ancora peggio di razzismo, si è piegato a questo pensiero comune. Proclamare invece di tornare ad arare il proprio orto equivaleva ad un'eresia. Dunque, voi pensate a una società pre-globalizzazione? Non vogliamo andare indietro, noi vogliamo costruire il futuro dei nostri figli, ma per farlo dobbiamo impostare un nuovo modello di sviluppo, ossia pensare dal piccolo al grande, e lo possiamo fare trovando soluzioni ai problemi delle aree più periferiche e dimenticate. In questo senso San Verdiano può essere un simbolo e un'ispirazione per tutti quei luoghi e quelle persone che non hanno ancora avuto il coraggio di esprimere la propria diversità. Ecco, non pensate che se altri seguissero il vostro esempio si correrebbe il rischio di smembrare la nazione? Tanti piccoli stati pronti ciascuno a difendere il proprio interesse. San Verdiano è stata una repubblica autonoma per oltre 400 anni. Dal 1440 fino all'unità. Allora però non fu chiesto a nessuno il permesso per unirla al resto della nazione. Fu fatto e basta. Era ora di rimediare, di ridare voce ai cittadini. Siamo un esempio di autodeterminazione che può fare solo del bene alla democrazia. Dietro questa vostra aspirazione la sofferenza di un episodio emblematico che 10 anni fa ha segnato un precedente referendum che poi non si è mai tenuto. Partiamo dalla fine, sono stati poi individuati i responsabili dell'incendio? No, dopo alcuni anni le indagini si sono interrotte. Spieghiamolo bene, 10 anni fa, la sera prima del referendum andò a fuoco la scuola dove si sarebbe dovuto tenere il voto, con le schede elettorali e tutto, dunque il referendum fu annullato. È stato dimostrato che l'incendio fu doloso, giusto? I sospetti non sono mancati, ma si rivelarono tutti infondati, quindi l'indagine si chiuse. Si chiuse, però ci fu una vittima. Un ragazzo del nostro paese, che era entrato nella scuola per cercare di spegnere l'incendio. Federico Ercolani. Fammi sentire quello, spegni. Sei rimasto allo stesso punto in cui t'ho lasciato come mio fratello. Forse perché noi non siamo scappati. Ecco, anche in questo vi assomigliate, entrambi a dire che sono scappata. Per una volta sì, sono d'accordo con Corrado. Una volta ho visto un coccodrillo fermo sopra la riva. Era immobilizzato dalle rocce, sembrava che dormisse. Poco lontano, delle zebre attraversavano il fiume. All'improvviso il coccodrillo ha spalancato gli occhi, spietato. Ha cominciato a nuotare verso le zebre. Scappate! Scappate! L'ho proprio gridato. Le zebre scappano, ma nessuno verrebbe in mente di condannarle. Per questo pure siamo delle bestie anche noi. Per le zebre è una questione di vita o di morte. Ma io non volevo fare la vostra fine. Non lo capisci che da lontano le vostre piccole idee, i vostri piccoli paesi non si vedono più, sono troppo piccoli. Non sono andate così le cose. Lo sai bene, Caterina, anche se fai finta di non ricordarlo. Tutta questa ossessione per il passato, che viene sempre tirato fuori come qualcosa degno di essere celebrato. Le radici, i ricordi. All'isola il passato non esiste. C'è un eterno presente. Per loro è come se fossi sempre stata lì. E alla fine è così anche per me. Sto imparando la loro lingua. Ha un suono dolce. Quando ti metti a studiare una lingua che in più non hai mai sentito, fai soltanto frasi semplici. Poche parole poi dette così male che la gente del posto ti rende indovinare. Si divertono molto con me che parlo come una bambina. Ed è meglio così. Mi evita di pensare a cose serie, a cose tristi. Casa, mare. Non ci credo. Non credo neanche a mezza parola di quello che dici. Tu non te la riesci neanche a immaginare l'isola. È un posto irraggiungibile. È collegata alla città da una nave. Un'unica corsa giornaliera quando non viene sospesa. Loro durante il tragitto tengono accesa questa televisione che in più non riesce neanche a sintonizzarsi su nulla. Ci vogliono 3 ore, 4 se il mare è mosso. Io all'inizio andavo in città una volta al mese, adesso ho un elenco delle cose che mi servono e va qualcun altro al posto di me. È un bel romanzo, dovresti scrivere. È la mia vita là. È quello che mi sono costruita in questi anni mentre tu hai continuato a rigirare intorno alle stesse cose, agli stessi discorsi. Lo capisci? Lo capisci che fuori da San Ferdinando c'è un mondo grande? Dove si possono fare altre cose, parlare d'altro, con altre persone. Lì la gente ha dei problemi concreti, non se li inventa come qui. Le persone devono trovare da mangiare per sé e per la loro famiglia. Tu mi vieni a dire che questo è un romanzo. Caterina, qui non siamo in isola sperduta dove la gente vuole di fare. E tu non vieni da quell'isola. Tu vieni da qua come me. Hai fatto le stesse cose che ho fatto. Ma devi a un certo punto. Sono passati 10 anni. In 10 anni le persone sane di mente cambiano. Tu credi davvero che basti andare dall'altra parte del mondo? Imparare una lingua che non conosci? Che basti prendere una nave insieme a dei poveri per cambiare quello che è successo? Noi non possiamo tornare indietro. Tanto vale andare avanti. Tutto andare avanti. Io posso andare avanti. Ma il ragazzo detto quello... Basta! La sua famiglia! Basta! Guarda che basta! Sono basta! È accaduta così tutti morti dall'altra parte! Che te ne vieni a ricordare! Noi ci possiamo rovinare la vita a forza di ricordare, di ricordare! So, no, tu non lo sai chi sono! Tu forse sai chi ero! Ma andare a vivere in un posto che non so immaginare, puoi dirmi che non dobbiamo fissarci a ricordare tutto, puoi raccontarmi che sei una donna migliore, umile, felice, insieme ai disgraziati della terra, puoi sostenere di essere in pace con tutti, ma non siamo solo quello che facciamo, siamo anche quello che abbiamo fatto. E io lo so cosa hai fatto. Cosa hai fatto? Non ne ho bisogno. Le persone sono più deboli di quello che tu puoi immaginare. Che cosa vuoi dire? Che cosa vuoi dire? Che vuol dire che le persone sono più... Eccomi! Guardate qua. Omaggio del Ferroni, c'è il pranzo. Per tutti. Vi ha rincorso in mezzo alla strada perché era entusiasta dell'intervista. Che dite? Su, dai, mangiamo qualcosa prima che ricomincio a tornare la gente, eh? Avevo lo stomaco bloccato per la girazione, non c'è mai stato a parlare in televisione. Alla Rai. È un grande, perché c'è un sacco di salsicce secche. L'avete vista l'intervista? Sì, l'abbiamo È divertente la televisione, non l'avrei detto. Anche il giornalista non si capisce che idea abbia del referendum, ma non è uno di quelli che ti tratta da deficiente se non la pensi come lui. Ti ascolta, ti fa parlare, non fa finta di niente. C'è un trucco. Una specie. La cibbia. La cibbia. Perché non mangiare? No, allora, i panini e il filone non si sprecano, perché questa benedetta porchetta l'ha fatta ieri, eh. Un po' di vino, se no con questi panini sai come pazza. Omaggio dei romagnoli, eh? Anche da tutti gli entusiasti. Questa sera ci rivediamo con calma, che ti senti pure di qui. Non rende. Ma non hai fame? Adesso no, magari più tardi. Più tardi, che ci facciamo provare da facciamo votare le persone con la porchetta in mano? Lorenzo, dai, fammi il piacere. Abbiamo un po' di compagnia, dai, il ferro di rimando anche a te. Sai, i clienti che avranno la credo di sua sorella, perché dico già adesso il paese è pieno di fanno sapere tutti che vogliono curiosare, se prevede che ne arrivino tanti altri, come andrà a finire? Questi due saranno quelli che ci guadagneranno di più. Poi, se quello che faremo continuerà a non piacergli, potrà riprendere a fare i suoi propositi di rivoluzione. Magari al bar, davanti a una birretta, con i suoi vecchi amici. Non proprio tutti, perché qualcuno l'ha già perso. Complimenti Corrado, bella intervista, siamo con te. Sapete chi me l'ha scritto? Prova a indovinare. Giovagnoli, quello con cui lui un tempo cospirava. Lorenzo, allora non preoccuparti, perché se ci sono dei problemi, noi li risolveremo. Non sarà più semplice farlo stando tra di noi. Sarà come essere in famiglia. Poche persone, chiuse dentro una stanza. Lo vedi, comincio a capire anche lui. Non dovrebbero avere nessun tipo di problema. O al limite dovrebbero risolverlo subito tra di loro. Infatti. Peccato però che spesso non sappiano un cazzo uno degli altri. Ma in che famiglia è cresciuto Lorenzo? Ah, la vostra, Corrado, eh? Un esempio perfetto. No, allora io la capisco la tua amarezza in un momento come questo, ma mi sembra nel corso del luogo per fare poi cosa, Caterina, sulla nostra famiglia. Non c'è ancora nessuno. Non ci ricapiterà più, credo, che se ne dessero a vedere da soli. Che cosa c'è, Lorenzo? Che cosa vuoi da noi? Caterina, sai benissimo cosa voglio. Lo so pure dove fare. Non mi mettete in mezzo. Ma qua facciamo tutti finta di fare. Sei rimasto un ragazzino presuntuoso e inutile. Non ci andare. Tu sei diventato una grande donna che risolve i problemi degli ultimi della terra, dimenticandoti però di quelli che ti lascia le spalle. Ti rendi conto di quello che è successo? Non dire un'altra mezza parola! Non siamo qui a risolvere i problemi chiusi nel nostro paesino, no? Come una famiglia! Ma noi non lo facciamo qua che in televisione. La continuiamo pure a dire che non c'è. Aspetta, aspetta! Caterina, tuo fratello lo sa. Lo sa chi ha dato fuoco alla scuola la sera prima del voto. Lo sa! Voce di paese, come sempre a San Bertiano. E come sempre conoscevano solo la metà dei fatti. Tu te l'eri già tornato all'università, e questo qua, paonazzo di rabbia, venne da me. E mi disse che mi avrebbe mandato in galera. Che cazzo hai fatto quel ragno? Quando ti ho detto, se ci vado io in galera, ce l'ho pure tua sorella. Hai capito, Caterina? Lui a fare la propaganda per il referendum, e tu a bruciare la scuola con i sensi. Ma certe cose non si devono dire. Tutto deve restare in famiglia. E allora ecco il nostro padre. Un silenzio che conviene a tutti. Un patto? Un patto? Ma come ti è venuto in mente? Io passo degli anni migliori a fare comizi, raccolte fondi, a studiare, a lavorare. Se non fosse stato per te, Lorenzo e quella banda di delinquenti sarebbero in prigione. Ma tu no, vero? Tu hai voluto giocare a fare Romeo e Giulietta. Però l'hai fatto alle mie spalle, l'hai fatto alle spalle della nostra famiglia. Perché io da quello me lo sarei aspettato. Ma da te? Da te? Rovinare tutto quello per cui tuo fratello ha lavorato 10 anni. Arrivate voi due a fare la rivoluzione e in una notte mandate all'aria tutto. Perché che fate? Bruciate i seggi elettorali la notte prima del voto. Bravi. Bella prova di coraggio. Vigliacchi eravate, vigliacchi miserabili. Avete ammazzato una persona. Un ragazzo di 20 anni, perché Federico lo conoscevamo tutti e con questa storia non c'entrava niente. Allora è tutti andare contro al referendum a dire, beh, referendum, no? Che semina l'odio. È il referendum che crea la violenza. Ma non siamo stati noi del referendum a usarla, questa violenza. Siete stati voi due. E allora io altri 10 anni mi sono rimboccato le maniche. Sì, ho lavorato. Ho lavorato per recuperare. E ce l'ho fatta. E non vi permetterò di mandare tutta l'aria, stavolta no. Perché questo è il mio giorno. È il mio giorno. E perché non me l'hai detto? Perché non avevo voglia di sporcarmi di merda le scarpe al fondo dei calzoni. Io non ne ho mai avuto voglia. Non ne ho voglia, quanto meno adesso. Ce l'avete fatta, eh? A ritirarmi dentro il vostro porcile. Perché tu ti sei messa in mezzo ai maiali, Caterina. Ma non te ne sei mai accorta. Mi dispiace che... che Lorenzo si sia preso tutto il meglio, ma le cose non sono andate proprio così. No. 10 anni fa, la sera del referendum, Lorenzo e i suoi volevano fare un po' il casino tirando qualche bomba carta. Sono io che ho detto no, no, tiriamo le Molotov. Non sai come si fa una Molotov? Col rado. Si prende una bottiglia di vetro e ci si mette dentro la benzina. Poi la si avvolge con uno straccio di bevuto d'olio, poi con il nastro adesivo tutto intorno, si attaccano dei fiammiferi, si dà fuoco allo straccio e si lancia la bottiglia. Stracci e bottiglie venivano dalla cantina dei nostri genitori. Non mi toccate! Non mi toccate! È colpa tua! È colpa tua! Figlio di un rivalito! Maledetto referendum! Dovevi lasciare le cose come erano! È colpa tua! Non mi toccare! Lasciami! Bisogna eliminare ogni traccia dell'inglorioso passato. Dimmi cosa vuoi, Lorenzo, su. Ma perché non l'hai ancora capito? Quando arrivano? Hanno detto fra mezz'ora. Un quarto d'ora fa. Pieno di gente là fuori. Stanno festeggiando la vittoria del referendum. Che cosa gli dirà? Caterina! Lo sai già. Sì. Ma da dove cominci? Verrà da sé. Si diverte. T'ho ascoltato dire cose tremende, condanno. Mi facevi rabbia! E paura! Mettevi in testa la gente bugie dette così bene che alla fine potevo crederci anch'io. Tua sorella veniva spesso al bar dove lavoravo. Una volta è entrata e non me ne sono accorto. Stavo facendo la tua imitazione. Perché la diversità non è un valore come ci fanno credere. Bisogna ripartire dall'identità dei popoli! Dall'identità dei popoli! E lei si è messa a ridere. E allora sai com'è per me? Mi è iniziato tutto lì. Mi sono sentito potente anch'io, almeno per una volta. Perché a me Corrado, la gente a San Bernardino non me li regala i panini per strada. Io non voglio aspettare nessuno. Vado in comune a portare i verbali. Non ti conviene! Se mi vogliono, mi vengono a cercare. Cosa gli diciamo? Io negherò fino all'ultima parola, perché tanto nessuno gli crederà. Ah, mi basterà mettere in dubbio la tua piccola repubblica. Dirò che non ne sapevo niente. E finirà lì per me. No, no. Devi fargli una nuova proposta, dovete fare un nuovo patto. Caterina, quello vecchio non è servito. Tu adesso vuoi offrire qualcosa di più importante, no? Qualcosa che Lorenzo vuole. Non credo che ci tenga. O mi sbaglio? Perché se mi sbaglio parliamo di Lorenzo. E questo non lo vuoi? Vorresti fare qualcosa di importante? Qualcosa che ti piace, nella nuova santa piana? Potresti costruire? Potresti... Una notte, Caterina. Una notte sarà stato qualche anno fa. Io stavo tornando a casa. E ad un certo punto mi sono trovato davanti un lupo. Non era un cane, Caterina, era un lupo. E allora io ho pensato che era arrivato il momento che aspettavo, che mi sarebbe capitato qualcosa. Una punizione. Da quando io e tuo fratello abbiamo deciso di nascondere la verità, la mia paura è diventata grande, sempre più grande. E invece Luca, lo sai cosa ha fatto? Mi ha guardato dritto negli occhi. Siamo rimasti lì, immobili. E alla fine se n'è andato. Arriva per tutti il momento di una punizione. Io e te ne abbiamo bisogno. Ma che cosa vuoi fare? Ci vuoi dare impasto ai lupi? Ma non dobbiamo niente a quello che eravamo. C'era una specie di innocenza, non lo facevamo soltanto per noi. Ma questo non ci rende innocenti. Ma non ci conviene parlare. Non ci conveniva neanche tirare le molotov, eppure l'abbiamo fatto. È stato un incidente. Noi non volevamo far male a nessuno. Io non ne voglio più parlare, non lo voglio più sentire, non serve a niente. Io vado. Chi ha paura? Io non posso. Lei non c'era. Era con me quella notte. Non riuscivamo a dormire per paura del referendum, per la generazione. Siamo rimasti svegli fino a tardi. Avere l'ateneo come facevamo da bambini. Avrei messo sulle gambe la copertina di lana grigia, quella che mamma usava davanti alla TV. Non si è accorta quando ha squillato il telefono. Dove vai? Mi hanno detto il nome di papà. Restate a letto, è successo qualcosa alla scuola. E sono uscito. Sono uscito da solo. Sono rimasta a casa tutta la notte. Mamma mi accarezzava la testa per farmi dormire, ma non mi sono riaddormentata. Sei tornato per la mattina? Ci hai detto dell'incendio alla scuola? Spettacolo Piccola Patria di Lucia Franchi e Luca Ricci con Simone Faloppa, Gabriele Paolo Ca e Gioia Salvatori. Regia di Luca Ricci, una produzione Capotrave Infinito. Con l'editore al contrario Marcello Baraghini per presentare il libro dal titolo Il catalogo dei cataloghi, stampa alternativa 50 anni in 1000 libri. Ben trovato. Ben accolto, perché siete tra i pochissimi che ogni tanto mi chiamate e possiamo fare due chiacchiere. In questo regime ormai è blindato, l'informazione onesta, antagonista e critica non passa. Allora, che cos'è questo progetto? È un sogno a occhi aperti, continuare a operare, a sfornare, a proporre nuovi libri di qualità e di controinformazione, sfidare le leggi del mercato per rivoltarle come un calzino e pensare a alternative di promozione, distribuzione, vendita e dibattito, però era ora di raccontare noi per primi i 50 anni. 50 anni che io chiamo di controstoria. La storia ufficiale marciava in un certo modo, a certe velocità, grazie a certe bugie noi la incalzevamo con i nostri libri, quindi 50 anni di controstoria italiana, di storia italiana al contrario di quella del regime, e quindi i 1000 libri finalmente riuscire con molta fatica, 2 anni di lavoro per mettere insieme i materiali, non avendo archivi organizzati, e alla fine i 1000 titoli e brandelli anche di racconto, sia da parte mia nelle fasi più cruciali, ma anche testimonianze spesso di qualche riga, spesso di qualche pagina, di coloro che hanno collaborato alla controinformazione, alla controcultura di stampa alternativa. Ecco, raccontiamo come è articolato, come è strutturato il volume. Lo zoccolo duro, quello fondamentale, sono i 1000 titoli, i 1000 autori divisi per collane è un catalogo dei cataloghi. Alcuni ci stanno criticando, non è un catalogo a norma, non so di che cosa. Il nostro impegno era dai cataloghi che ogni anno, ogni due anni editavamo, partire da quelli e raccogliere, inventariare e dare gli indici, titoli, autori, divisi per collane e per anni, fino alle strade bianche di stampa alternativa, che è la nuova stampa alternativa da alcuni anni. Dopodiché però abbiamo intercalato ai titoli divisi per collane e per anni, intercalato alcuni miei racconti molto brevi sulle fasi cruciali, sulle sofferenze oppure sulle decisioni straordinarie della casa editrice, anche rispetto alle vicende di mercato, alle vicende politiche e culturali del paese. E abbiamo chiesto a una ventina, quelli che avevamo disponibili in questo lasso di tempo, di testimoniare, tipo Matteo Garnaccia, faccio uno perché da poco è scomparso con grande dolore da parte mia, di raccontare il loro primo libro, questa è la chiave. Quindi racconta Matteo Garnaccia, che purtroppo non c'è più, la tua irruzione col primo libro, che clima hai trovato, e lui comincia con la stampa alternativa di via Prato Falcone negli anni 70, fino ai giorni nostri, agli ultimi scrittori, curatori delle strade bianche di stampa alternativa. In questo è un libro di popolo, per quanto racconta di scrittori e di contenuti vicini al popolo, è un libro anche di popolo di scrittori, di popolo di collaboratori, di grafici e di traduttori, eccetera, eccetera. Vedere questi 50 anni di storia che ti riguarda nero su bianco in maniera organizzata e quantificata, che impressione? Mi ha stupito, non dico che mi ha commosso perché sembra, no, che mi metta a piangere per la felicità, però devo dirti mi ha stupito e mi ha fatto piacere perché è un atto dovuto. È vero che io penso sempre a quello che sto facendo oggi e per me è il futuro che conta, i prossimi giorni, il prossimo festival, oltre le macerie a Pitigliano dal 23 agosto al 28, è vero che il futuro incalza, quindi io vivo quello. E perché non ho archivi, per esempio, per questo non ho mai inventariato, messo da parte, i miei mini libri non li ho, io ne avrò qui 100, 150, 200, 300 in libreria, quelli è stato possibile rendere disponibili. Detto questo però è un atto dovuto per chi ci ha seguito, ci ha letto, ci ha amato e ha condiviso battaglie con noi. Quindi è un libro che non finirà mai, perché man mano che avremo nuove edizioni verranno corretti alcuni piccoli refusi, saranno integrati alcuni titoli, alcuni autori che mancano, ma registrerà di nuovo le avventure editoriali, perché la controinformazione, io ritengo, rispetto alla nostra storia di 50 anni sia più che mai vitale, importante, foriera di criticità, di resistenza e di lotta, non solo editoriale. Ci dai tutti i riferimenti web? Il sito di riferimento è stradebianchelibri.com. La posta è stradebianchelibri@gmail.com. Scriveteci anche per avere informazioni, dialogo, confronto, quanto voi ritenete, ve lo diremo man mano che ce lo chiederete. Il catalogo dei cataloghi, stampa alternativa, 50 anni di libri. Le strade bianche di stampa alternativa, il catalogo dei 50 anni di stampa alternativa, i mini titoli però, l'ultima parte di questo stesso titolo riguarda le strade bianche di stampa alternativa, che oggi è la casa editrice a Pitigliano, l'associazione culturale e la libreria più bella del mondo, che prosegue l'avventura di controinformazione, di resistenza e di lotta di stampa alternativa. Un saluto e un ringraziamento all'editore al contrario, Marcello Baraghini. Grazie a Onda Rossa, che viva, che viva, viva, viva Onda Rossa. Con Francesca Nodari, direttore scientifico della 17ª edizione del Festival Filosofi lungo l'Oglio. In 22 comuni della provincia di Brescia, Bergamo e Cremona, dal 10 giugno al 31 luglio 2022. Ben trovata. Ben trovato Federico, a te e a tutti i radioascoltatori. Come si caratterizza questo festival? È un festival unico nel suo genere perché ritrova una delle sue peculiarità nel fatto che ad ogni incontro si cambi luogo e relatore o relatrice, e quest'anno dura anche di più perché accanto al cuore del festival, che è sempre costituito dalle lezioni magistrali, questo non ricordo il tema, appunto è dire io, il grande tema del soggetto, della soggettività, e quindi di concerto dell'alterità. Il festival ospiterà al suo interno un circuito di 5 incontri che concerne il rapporto tra filosofia e cucina, saranno degli incontri curiosi, una sorta anche di anteprima a Brescia e Bergamo, capitali della cultura, una sorta di preambolo come novità di questa 17ª edizione, e che prevede un articolarsi incalzante di questi 5 incontri, costituito da una pericena iniziale, si parte alle 20, uno show cooking firmato sempre dalla chef molto noto di Rai 1 nella trasmissione di Antonella Clerici e Francesca Marsetti, a seguire una lezione magistrale sul rapporto tra cibo e filosofia, e poi a chiudere con reading di attori, tra i quali il 15 luglio è prevista la presenza di Cesare Bocci. Partiamo dalla città di Brescia, nel nostro capoluogo di provincia, San Barnaba. L'appuntamento è alle 21, come sempre sarà alle 21 per le lezioni magistrali, e poi sarà un susseguirsi di relazioni, appunto di incontri in vari comuni, distribuiti principalmente nella provincia di Brescia, ma ci sono anche alcuni comuni della provincia di Bergamo, compresa la città stessa di Bergamo, e poi la città di Cremona. Quanti appuntamenti? 28 appuntamenti, tra questi vorrei segnalare anche l'assegnazione dell'11ª edizione del Premio Internazionale di Filosofia Filosofi Lungo l'Olio, e poi anche un incontro molto atteso che si terrà il 21 luglio presso la sede della Fondazione a Villa Chiara, in provincia di Brescia, dove ci sarà un focus dedicato al contrasto della violenza di genere, e che si intitola in maniera molto significativa "In piedi davanti ad una donna". Avremo la presenza del ministro per le pari opportunità Elena Bonetti, ma anche del prefetto di Brescia Maria Rosa Laganà, ma anche dell'onorevole Annibali, che come sappiamo purtroppo è stata anche vittima e stessa di violenza. Come si caratterizza ogni singolo incontro? Beh, la specificità è il punto di vista che viene offerto da ciascun relatore. Si parte appunto con una voce molto ascoltata all'interno della branca dell'ascetismo contemporaneo come Enzo Bianchi, per passare ad un grande filologo come Ivano Dionigi, per passare ad un pensatore molto importante come Massimo Cacciari, e poi molti altri, Salvatore Natoli, il politologo Ilvo Diamanti, l'altro grande pensatore Umberto Galimberti, il direttore del Censis Massimiliano Valeri, e poi ancora Monsignor Pierangelo Sequeri, il filosofo Roberto Celada Vallanti, Maria Rita Passi, che chiuderà come tutti gli anni, come consuetudine, il 31 luglio il festival, e durante questa serata di chiusura del festival verrà anche annunciata la parola chiave dell'edizione 2023. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? www.filosofilungololio.it. Ricordo anche che è possibile fare le prenotazioni, che sono obbligatorie per i 5 incontri di filosofia a tavola, proprio sul sito del nostro festival. Sono attivi tutti i canali social, siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, e naturalmente tutte le altre serate del festival, ad eccezione dei 5 incontri di filosofia a tavola, sono ad ingresso libero. È un'edizione che sentiamo molto e che io vorrei venisse dedicata ad un pensatore che è stato un gigante della filosofia mondiale, e che è stato il mio maestro, che è Bernard Castle, che non c'è più, che si è spento ieri all'età di 91 anni, una produzione, una bibliografia sterminata. A lui dobbiamo l'introduzione nel dibattito della filosofia contemporanea di concetti importantissimi legati alla temporalizzazione dell'accadimento, dell'incontro tra l'io e l'altro. A lui dobbiamo i grandi studi sulla filosofia del dialogo, il pensiero dialogico è una delle sue opere tra le moltissime tradotte in italiano, da poco riedite per Morcelliana. Pensa che un grande filosofo come Emmanuel Levinas volle dedicargli un suo libro nell'ora delle lezioni. Lui non c'è più, è stato per molti anni nel nostro comitato scientifico, purtroppo negli ultimi tempi, proprio a causa delle sue condizioni di salute, non era stato più possibile poterlo avere fisicamente presente tra noi, ma questo è sempre stato, ed ora che purtroppo non c'è più, su questa terra per noi continua a vivere attraverso la memoria, attraverso tutto ciò che ci ha insegnato. Abbiamo avuto allievi in tutto il mondo, dall'Argentina all'America e anche ovviamente in Europa, tanti italiani, tanti francesi, ovviamente tanti tedeschi. Vorremmo dedicare davvero a lui questa edizione perché ha dedicato la sua vita a studiare il rapporto tra l'io, il tempo e l'altro. Oggi, per entrare in medias res, siamo davanti ad una deformazione dell'individualismo, ad una iolatria che sta avanzando in maniera prepotente e, come dice un grande filosofo sudcoreano, Byung-Chul Han, che ha scritto moltissimi libri, dice qui La società senza dolore e poi l'ultimo Le non cose, questa costante e progressiva perdita di empatia sta portando ad una scomparsa dell'altro. Ecco, io credo che denunce come queste non possano passare sotto silenzio. Noi non possiamo rimanere indifferenti dinanzi ad una situazione così complessa, così problematica come quella in cui vive la nostra società della prestazione, la nostra società della globalizzazione, iperconnessa ma sempre più sola. Ecco, questo forse è il grande inganno, mi viene da dire, a cui il soggetto contemporaneo è stato sottoposto, e occorre fare qualcosa, occorre correre ai ripari. Ecco, il festival vuole essere un'occasione per offrire tantissimi spunti di riflessione e nello stesso tempo per portare davvero le persone a ritrovarsi insieme dopo questi anni terribili della pandemia che ci hanno forzatamente tenuto distanti, e quindi tornare a fare comunità, tornare, come mi piace dire, a fare cerchio attorno ai maestri che tornano ad affollare le piazze, i sagrati delle chiese, le dimore signorili, insomma i vari luoghi che sono sempre luoghi non scelti a caso e che costituiscono anche un'occasione, perché no, per scoprire un patrimonio storico artistico di cui il nostro paese è ricco e che magari non necessariamente è conosciuto. Ecco, il festival può essere un'occasione per fare una full immersion di pensiero, ma anche di storia, di arte, di cultura a 360 gradi. 17ª edizione del Festival Filosofi Lungo l'Oglio, in 22 comuni delle province di Brescia, Bergamo e Cremona, dal 10 giugno al 31 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore scientifico Francesca Nodari. A presto! Grazie molte, Federico, a presto e buona continuazione a te e ai radioascoltatori. Con Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo per presentare la 22ª edizione del Festival Attraversamenti Multipli a Roma dal 10 al 18 giugno e a Toffia il 25 e 26 giugno 2022. Ben trovata. Grazie, ciao, buongiorno. Partiamo dalla realtà di Margine Operativo. Margine Operativo è una compagnia artistica, un progetto artistico che è nato un bel po' di tempo fa e che ha la caratteristica che ha sempre lavorato su più codici artistici, principalmente sul teatro, ma intrecciando anche la danza e quelle che sono le performance art, e lavorando anche sul video. E poi un altro aspetto importante del percorso di Margine Operativo è sempre stato quello di immaginare la non autosufficienza nell'ambito dell'arte, e questo ci ha portato a dialogare con altre compagnie, con altri gruppi, e a creare un festival che è Attraversamenti Multipli, un festival multidisciplinare che per noi nasce un po' come un grande spettacolo multiforme in cui c'è una carrellata, vengono presentate parecchie performance, spettacoli della scena delle arti performative contemporanee, però viene costruito, curato come se fosse un grande spettacolo anche unico. Quindi non ci piace definirci organizzatori, ma usare la parola che curiamo un festival, perché racconta un po' più anche il lungo processo attraverso il quale poi viene costruito il festival ogni anno. Come si articola quest'anno?

e questa è anche la sua bellezza. Offre veramente dei discorsi a volte mistici, visto che siamo sui cammini di San Benedetto. E quindi ecco, cerchiamo di organizzare un pacchetto che possa invogliare le persone a venire a conoscere questi luoghi, a vedere un bello spettacolo, a vivere con noi l'esperienza artistica che lo circonda, ma è anche visitare dei musei, dei siti archeologici che normalmente magari sono chiusi, invece in quel giorno saranno aperti, i comuni collaborano con noi, abbiamo delle visite guidate gratuite e poi abbiamo anche un aspetto enogastronomico degli ristoranti che in convenzione accolgono i visitatori del festival. Il festival multidisciplinare Portraits on Stage, Valle dell'Aniene, dal 12 giugno al 9 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Gloria Tapio. Aggiungo, ad agosto però siamo fermi, chiudiamo il 1 agosto e riprendiamo poi alla fine di agosto fino al 9 settembre. Grazie mille. Con Roberto Grendene dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, che insieme a Dati Bene Comune ha avuto accesso ai dati del Ministero della Pubblica Istruzione relativamente all'ora di religione. Ben trovato. Buonasera e grazie dell'invito. Cosa ci dicono questi dati? Innanzitutto la prima notizia è: abbiamo ottenuto questi dati perché finora gli unici che diffondevano e commentavano con conferenze stampa i dati della pubblica amministrazione, in particolare della scuola, questi dati così importanti sulla frequenza o meno dell'ora di religione cattolica, erano solo i vescovi. Cioè i vescovi acquisivano, facevano statistiche, facevano un macro raggruppamento per nord, centro, sud Italia e pubblicavano i dati. Ebbene, il Ministero dell'Istruzione ha un portale dedicato che si chiama Portale Unico dei Dati sulla Scuola, e gli unici dati così importanti che mancano sono proprio quelli che attengono all'insegnamento della religione cattolica. Quindi la prima notizia è: abbiamo ottenuto i dati e li abbiamo liberati, li abbiamo dati a disposizione di tutti, e sono dati dettagliati, nel senso che arrivano alla singola scuola. Per ogni scuola abbiamo riportato la frequenza, abbiamo costruito quindi chi dice no all'ora di religione, e sono a disposizione. Il primo dato è che 1 milione di studenti, quindi di famiglie, almeno 1 milione dice no all'ora di religione, 1 milione su 7 milioni. Quindi stiamo parlando del 14% e qualcosa. L'altro dato è che questo fenomeno dei no all'insegnamento dottrinale della religione cattolica, che in Italia è impartito in, cito, conformità della dottrina della Chiesa da insegnanti scelti dal vescovo e pagati dallo Stato, è che questa percentuale cresce di anno in anno, perché abbiamo chiesto e ottenuto gli ultimi 3 anni scolastici e abbiamo visto che ogni anno più o meno cresce di mezzo punto percentuale, quindi il trend è una crescita. Poi altri dati sono che le regioni che primeggiano nei no all'insegnamento della religione cattolica sono Toscana, Emilia Romagna e Liguria. La città con maggiori no all'ora di religione è Firenze, con il 36 e qualcosa per cento. La seconda è Bologna, che ha il 35-85%, se non sbaglio. La terza è Trieste, a poca distanza. Queste sono le prime considerazioni. Come mai questa difficoltà, questa poca trasparenza rispetto a questi dati? Siamo in Italia, perché quando c'è di mezzo la religione c'è sempre cautela da parte della pubblica amministrazione, o addirittura favoritismo. Già la legislazione con il concordato mette per iscritto, insomma, il favoritismo, e quindi era sempre stato lasciato ai vescovi la comunicazione, la raccolta dati e la pubblicazione. Noi l'abbiamo liberata, però infatti l'auspicio che abbiamo assieme a Dati Bene Comune, perché è un'azione che abbiamo fatto congiuntamente, è proprio quella che sia lo stesso ministero a pubblicare questi dati e non noi, con Dati Bene Comuni, in un repository. Chiunque li può scaricare, adesso noi li abbiamo messi a disposizione di tutti, sono appunto dati ministeriali come ci sono stati forniti. Ecco, c'è ancora qualche imperfezione, abbiamo visto, e abbiamo cercato di, diciamo così, bonificarli oppure fare delle statistiche senza tener conto di alcune imperfezioni, perché ci sono ad esempio alcune scuole che segnano un numero di avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica che sono minori di 3. Ecco, questi ci sembrano più mancate rilevazioni che veri istituti in cui quasi tutti, se non tutti, dicono no all'ora di religione cattolica. Quindi questi li abbiamo esclusi dalle nostre valutazioni. Poi ci sono alcune cose che non ci sembrano plausibili, come passaggi da centinaia di scelte in un anno scolastico a poche unità di scelte. Anche questi sono dati che andrebbero verificati, però il nostro auspicio, come ripeto, è che diventino patrimonio pubblico, e lo sono già in questo momento grazie a noi, ma diventino anche diffusi dal Ministero dell'Istruzione. Che opzioni hanno gli studenti e le studentesse che rifiutano l'ora di religione? Molti giornali hanno titolato l'esonero dall'ora di religione. Non è più così dal 1984. Si sceglie, si mette un sì o un no in fase di iscrizione, si può cambiare anche di anno in anno, all'insegnamento che appunto è facoltativo dell'ora di religione cattolica. Alternativa, ci sono quattro scelte che sono tutte e quattro diritti costituzionali. Lo dico perché è stata la Corte Costituzionale a dire come stanno le cose, perché appunto non essendo più un obbligo c'è anche ad esempio la scelta di uscire dalla scuola, quindi non partecipare, non è scuola dell'obbligo, si può dire no semplicemente e uscire. Chiaramente questa scelta è plausibile o comunque è conveniente e può essere praticata soprattutto alle scuole superiori, non certo con un bambino di 3 anni, perché stiamo parlando di un insegnamento che viene inserito nei programmi scolastici a partire dai 3 anni di età, dalla scuola dell'infanzia. Quindi appunto c'è l'uscita dalla scuola, che è un'opzione, anche se, come ho detto, riservata all'età più avanzata, e invece la prima opzione è quella dell'attività didattica e formativa, la cosiddetta ora alternativa, che è essenziale garantirla soprattutto nella fascia 3-10 anni, quindi scuola dell'infanzia, cosiddetta scuola materna, e scuola primaria, cosiddetta scuola elementare, dove peraltro sono 2 ore la settimana di religione cattolica, quindi abbiamo in programma 2 ore di religione cattolica e solo 2 ore di scienze, per dire come è messo insomma la scuola pubblica italiana. Le altre opzioni sono, la chiamiamo la B e la C, perché in questo momento si stanno esperimenti genitori su queste 4 opzioni, la B e la C sono lo studio individuale con assistenza del personale docente, che è praticabile tipicamente alla scuola media, alla secondaria di secondo grado, e l'ultima opzione è lo studio individuale senza assistenza del personale docente, però questa è vincolata appunto solo alle scuole superiori, perché prima è inopportuno, però dei ragazzi e delle ragazze potrebbero stare ad esempio in biblioteca a fare ricerca per i fatti loro senza necessariamente avere un docente che li controlla o comunque li guida. Queste sono le 4 opzioni. Per quanto riguarda l'ora di religione, esistono linee guida ministeriali per l'insegnamento? Cosa viene insegnato? Sì, esistono delle linee guida che chiaramente sono stabilite d'accordo con la CEI, cioè i libri di testo dell'insegnamento della religione cattolica, ecco, a volte ci dice per brevità ora di religione, ma è insegnamento della religione cattolica, sono approvati dalla CEI, quindi non si può insegnare altro che non quello che decide la Conferenza Episcopale Italiana, i Vescovi, ed è, come dicevo prima, per legge risalgo al concordato, impartito in conformità con la dottrina della Chiesa. L'altra cosa allucinante per uno Stato laico è che i docenti, quindi impiegati pubblici pagati con lo stipendio statale, sono scelti dal Vescovo, si chiama idoneità diocesana, senza quell'idoneità non possono insegnare, quindi uno può anche fare il concorso ma senza l'idoneità non può insegnare, anzi non può neanche fare il concorso, i pochi concorsi che ci sono stati. E quindi questa cosa dell'idoneità diocesana si riflette anche per il mantenimento della possibilità di avere quello stipendio pubblico, quindi in particolare per coloro che sono appunto precari, perché essendo un insegnamento facoltativo è anche normale che siano precari, se per caso nella loro vita privata cominciano ad avere comportamenti non in linea con la dottrina, potrebbero anche perdere il posto. Ed è capitato, si può fare qualche ricerca in rete, si trovano ad esempio ragazze e madri o insegnanti di religione che si sono espressi a favore di metodi contraccettivi del condom, a cui non è stato più rinnovato questa idoneità diocesana e non hanno più potuto insegnare religione. Ecco, se fossero scuole private cattoliche lo potrei capire, ecco, magari se non fossero finanziate dal pubblico, ma essendo scuole statali ci sembra veramente non al passo coi tempi, col terzo millennio. In conclusione, ci dici dove sono fruibili questi dati ministeriali? Potete andare a vedere sia sul blog dell'UAR, dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, sia sul sito di Dati Bene Comune, troverete un articolo, ho fatto una ricerca per dati insegnamento della religione cattolica, 1 milione di no all'IRC, e troverete un articolo dove in fondo c'è citato questo repository che sta su GitHub, praticamente si scarica un file, e si è su un file Excel, nel quale ci sono tutti i dettagli e alcune aggregazioni. Negli articoli potete anche trovare invece delle più agili mappe che abbiamo sviluppato in collaborazione con Ondata, associazione che aderisce a Dati Bene Comune, nelle quali seguendo il link si arriva a delle mappe di tutta Italia dove si possono vedere le classifiche e i dati per regione e per provincia delle scelte dei sì e dei no all'insegnamento della religione cattolica. È l'inizio di un rendiconto annuale? Noi auspichiamo sicuramente questo, così come siamo entrati in possesso dei dati degli ultimi 3 anni scolastici, non ancora di quelli in corso, c'è stato fornito dal 2018-19 al 2020-2021, auspichiamo che sia lo stesso Ministero a pubblicarli anno per anno. Non solo, noi vorremmo acquisire anche qualche altro dato, perché qualche dato non ci è stato fornito, perché dicono dal Ministero che non gli viene fornito dalle stesse scuole, che è proprio quello che da un certo punto di vista ci interessa anche in particolare, che sono proprio i dati sulle scelte alternative. Noi volevamo capire anche di anno in anno comunque come venivano scelte le opzioni di cui abbiamo parlato prima, in particolare l'ora alternativa, ma anche studio individuale e uscita dalla scuola. Questi dati non ci sono stati forniti, ma cercheremo di entrarne in possesso in qualche modo, è un prossimo passo. Un saluto e un ringraziamento a Roberto Grenden dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, che insieme a Dati Bene Comune hanno avuto accesso ai dati del Ministero della Pubblica Istruzione relativi all'insegnamento della religione nella scuola italiana e li hanno resi pubblici. A presto! Grazie, grazie dell'invito e grazie ancora. Eccoci, questa è l'agenda della settimana per quanto riguarda il teatro e gli eventi culturali. Simone Nebbia di Teatro e Critica, ben trovato. Ciao a tutti, buon pomeriggio. E la ricchezza di questa settimana la dobbiamo soprattutto al teatro che si fa all'aperto, la performance, la possibilità che il teatro ha di abitare le piazze, abitare i nostri quartieri di Roma, e un festival come quello di Attraversamenti Multipli, di cui abbiamo parlato poco fa anche con Alessandra Ferraro, sicuramente rappresenta da tanti anni ormai in pieno questa vocazione che ha la Roma più indipendente di, insomma, abitare il territorio dal di dentro. E questa settimana andiamo soprattutto nel quartiere del Quadraro, nel parco dell'Acquedotto Felice a Torre del Fiscale, e si parte domani di nuovo, mercoledì 15 giugno, con una pratica interattiva dal nome Atrio di Salvo Lombardo e Chiasma. Seguirà Carlo Massari con Cenci Company, Metamorphosis in Natura, gli atti di metamorfosi contemporanea, tutti i lavori maggiormente site specific come quello di Nicola Galli, Il Mondo Altrove, o il primo studio della performance di Francesco Leineri, Cartoline, ciò che parte da un luogo arriva in un altro. E poi ancora sempre al Parco Ritorno del Fiscale nei giorni successivi, di nuovo ci sarà sicuramente giovedì anche il Venere Adone di Roberto Latini, con la variazione numero 3 di questo lavoro dedicato appunto al testo Venere Adone, e venerdì la volta anche di Daniele Ninarello con Nobody, Nobody, Nobody, It's Ok Not to Be Ok, e poi la performance di Margine Operativo e Mondocane, Tele Radio Metropoli. Poi sabato ancora il ritorno a Roma di Madame Rebinet a Largo Spartaco, al Quadraro, con mentre invece una prima nazionale, quella di Spellbound Contemporary Ballet, If You Were a Man. Questo per quanto riguarda Attraversamenti Multipli, ma non è l'unico festival della settimana, perché ancora abbiamo gli appuntamenti di Fuori Programma tra la Piazza del Quarticciolo, il Teatro del Quarticciolo, Teatro India, Parco di Tor Tre Teste Alessandrino. Insomma, in questi luoghi si muove il festival di Valentina Marini, anche se per questa settimana si ferma un po' a pensare all'abitazione successiva, perché si riprenderà poi settimana successiva. Ma lo ricordo perché, insomma, è un po' quello che dovremo seguire fino alla metà più o meno di luglio, e quindi è il caso di non perdere appunto questa attenzione. Poi, per quanto riguarda altri lavori, io ricordo che il 15 di giugno, ossia domani, in ricordo di Giuseppe Bertolucci al Teatro Argentina, c'è una presentazione di un volume, Il dolce rumore della vita, di Giuseppe Bertolucci, tra cinema, teatro, televisione e poesia. Ci sarà Fabrizio Gifuni, grande amico di Bertolucci, e poi per questo omaggio in sala squarzina del Teatro Argentina a 10 anni dalla morte, condurre La serata alle ore 19 sarà Lidia Ravera. E ricordo due appuntamenti che appunto ci interessa ricordare: sicuramente l'inizio della prima edizione di Appia nel Mito, appunto sono degli spettacoli che un po' si riferiscono alla tradizione più classica, con invece dei riferimenti più contemporanei, insomma, per quanto riguarda la suggestiva location e il teatro invece più contemporaneo, quindi il rapporto tra la location antica e il teatro più contemporaneo. La chiesa di San Nicola sull'Appia antica, si comincia con Appia nel Mito, con sabato 18 giugno Clitennestra di Luciano Violante, autore conosciamo nella nostra storia anche politica. In scena c'è Viola Graziosi, la regia Giuseppe Di Pasquale per questa Clitennestra. Sabato 18 giugno invece questa riscrittura italiana del mito di Clitennestra dialogherà il 19 invece con l'Ifigenia in Cardiff di Gary Owen, con la regia di Walter Malosti e in scena Roberta Caronia, sempre nella chiesa di San Nicola su via Appia Antica 161. Questo secondo spettacolo l'ho visto, mi sento di consigliarlo perché Roberta Caronia è una grande attrice in questo spettacolo, insomma dà davvero ottima prova di sé. Ultimo lavoro che vado a ricordare è quello che vede due appuntamenti in fondo al Teatro India che riguardano l'Accademia Silvio D'Amico. Il primo è la regia di Tommaso Capodanno, dal testo di Raphael Spreckelburg, Tutto, e sarà in scena 16 e 17 giugno appunto al Teatro India, mentre invece dal 17 al 22 giugno ci sarà una maratona dedicata ad Antonio Latella, alla Latella goldoniano in fondo, perché ci saranno in scena per tutti questi giorni uno spettacolo al giorno con anche un paio di repliche in realtà: Hotel Goldoni, La Locandiera, Il Servitore dei Due Padroni e La Moglie Saggia, quindi la produzione goldoniana e non solo in realtà di Antonio Latella, tutta in scena al Teatro India, appunto in questa finestra dedicata all'Accademia Silvio D'Amico, che presenta insomma un grande regista come Antonio Latella e in apertura nei giorni precedenti un regista emergente come Tommaso Capodanno. Seguirà poi settimana prossima, ne parleremo, la regia di Danilo Capezzani su Riccardo II di William Shakespeare, ma insomma ci sarà modo di parlarne settimana prossima. E per questa volta direi che è tutto. Ciao a tutti! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.